Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Restiamo umani, The Reading Movie, dal libro Gaza, Restiamo umani di Vittorio Arrigoni. Presentazione capitolo 1, Guernica in Gaza, legge Egidia Beretta Arrigoni. Capitolo 2, Un lento morire in vano ascolto, legge Massimo Arrigoni. Capitolo 9, Non lascerò il mio paese, legge Moni Ovadia. Capitolo 10, Hanno ucciso Ippocrate, legge Don Andrea Gallo. Capitolo 13, Figli di un Allah minore, legge Maria Elena Delia. Capitolo 14, I gironi infernali di Giabilia, legge Luisa Morgantini. Musiche Fulvio A. T. Renzi, Emanuele Wilsch Barberio, Pachi Zennaro. Cari hermanos, il nostro adagio Restiamo umani diventa un libro. È all'interno del libro il racconto di 3 settimane di massacro, scritto al meglio delle mie possibilità, in situazioni di assoluta precarietà, spesso trascrivendo l'inferno circostante su un taccuino sgualcito, piegato sopra un'ambulanza in corsa a sirene spiegate, o battendo e befreni coi tasti su di un computer di fortuna, all'interno di palazzi scossi come pendoli impazziti da esplosioni tutt'attorno. Vi avverto che solo sfogliare questo libro potrebbe risultare pericoloso. Sono infatti pagine nocive, imbrattate di sangue, impregnate di fosforo bianco, taglienti di schegge d'esplosivo. Se letto nella quiete delle vostre camere da letto, rimbomberanno i muri delle nostre urla di terrore, e mi preoccupo per le pareti dei vostri cuori, che conosco come non ancora insonorizzate dal dolore. Mettete quel volume al sicuro, vicino alla portata dei bambini, di modo che possano sapere sin da subito di un mondo a loro poco distante, dove l'indifferenza e il razzismo fanno a pezzi i loro coetanei come fossero bambole di pezza, in modo tale che possano vaccinarsi già in età precoce contro questa epidemia di violenza verso il diverso e ignavia dinanzi all'ingiustizia, per un domani poter restare umani. Confido in voi che confidate in me, non per i morti, ma per i feriti a morte di questa orrenda strage. Un abbraccio grande come il Mediterraneo che, separandoci, ci unisce. Restiamo umani, vostro maidomo Vic. 27 dicembre 2008. Guernica in Gaza. Il mio appartamento di Gaza dà sul mare. Ha una vista panoramica che mi ha sempre riconciliato il morale, anche quando ero affranto per la miseria a cui è costretta una vita sotto assedio. Prima di stamattina, quando dalla mia finestra si è affacciato l'inferno. Ci siamo svegliati sotto le bombe oggi a Gaza e molte sono cadute a poche centinaia di metri da casa mia e molti miei amici ci sono rimasti sotto. Siamo a 210 morti accertati finora, ma il bilancio è destinato a crescere, una strage senza precedenti. Hanno spianato il porto e raso al suolo le centrali di polizia. Mi riferiscono che i media occidentali hanno digerito e ripetono a memoria i comunicati diramati dai militari israeliani, secondo i quali gli attacchi avrebbero colpito chirurgicamente solo le basi terroristiche di Hamas. In realtà, visitando l'ospedale di Al-Shifa, il principale di Gaza City, abbiamo visto dei corpi distesi nel cortile, alcuni in attesa di cure, la maggior parte degni di sepoltura, decine di civili. Avete presente Gaza? Ogni casa è arroccata sull'altra, ciascun edificio è posato sull'altro. Gaza è il posto al mondo a più alta densità abitativa, per cui se bombardi a 10.000 metri di altezza, è inevitabile che tu faccia una strage di civili. Ne sei cosciente e colpevole. Non si tratta di errore, di danni collaterali. Così, bombardando la caserma di polizia di Al-Abbas, in pieno centro, è rimasta coinvolta nelle esplosioni anche la scuola elementare lì a fianco. Era la fine delle lezioni e i bambini erano già in strada. Decine di grembiulini azzurri svolazzanti si sono macchiati di sangue. Durante l'attacco alla scuola di polizia Dair al-Balah si sono registrati morti e feriti nel souk vicino, il mercato centrale di Gaza. Abbiamo visto corpi di animali e di uomini mescolare il loro sangue in rivoli che scorrevano lungo l'asfalto. Una guernica fuoriuscita dalla tela per trasfigurarsi nella realtà. Ho visto molti cadaveri in divisa nei vari ospedali che ho visitato. Molti di quei ragazzi li conoscevo. Li salutavo tutti i giorni sulla strada per il porto o la sera, mentre camminavo verso i caffè del centro. Diversi li conoscevo per nome. Un nome, una storia, una famiglia mutilata. La maggior parte erano giovani, sui 18-20 anni, per lo più non schierati né con Fatah né Hamas. Semplicemente si erano arruolati in polizia una volta finita l'università, alla ricerca di un posto di lavoro sicuro in una Gaza che sotto il criminale assedio israeliano vede più del 60% della popolazione disoccupata. Mi disinteresso della propaganda. Lascio parlare i miei occhi, le mie orecchie tese allo stridio delle sirene e ai boati del tritolo. Non ho visto terroristi fra le vittime, ma solo civili e poliziotti. Soltanto il giorno prima li prendevo in giro per come si erano imbacuccati per ripararsi dal freddo. Vorrei che almeno la verità rendesse giustizia a queste morti. Non hanno mai sparato un colpo verso Israele, né mai lo avrebbero fatto, perché non era quella la loro mansione. Si occupavano di dirigere il traffico e della sicurezza interna, tanto più che al porto siamo ben distanti dai confini israeliani. Ho una videocamera con me, ma ho scoperto oggi di essere un pessimo cameraman. Non riesco a riprendere i corpi maciullati e i volti in lacrime, non ce la faccio. Non riesco perché piango anche io. Sono andato a donare il sangue all'ospedale di Al-Shifa insieme agli altri dell'International Solidarity Movement e lì abbiamo ricevuto la telefonata. Sara, una nostra cara amica, è rimasta uccisa da un frammento di esplosivo vicino alla sua abitazione nel campo profughi di Jabalia. Una persona dolce, un'anima solare. Era uscita per comprare il pane per la sua famiglia. Lascia 13 figli. Poco fa mi ha chiamato da Cipro Tofik. Tofik è uno dei fortunati studenti palestinesi che grazie alle nostre barche del Free Gaza Movement è riuscito a lasciare l'immensa prigione a cielo aperto della striscia e a rifarsi una vita altrove. Mi ha chiesto se ero andato a trovare suo zio e se l'avevo salutato da parte sua come gli avevo promesso. Titubante mi sono scusato perché non avevo ancora trovato il tempo. Troppo tardi, è rimasto sotto le macerie del porto insieme a tanti altri. Da Israele giunge una minaccia terribile. Questo è solo il primo giorno di una campagna di bombardamenti che potrebbe protrarsi per 2 settimane. Faranno il deserto e lo chiameranno pace. Il silenzio del mondo civile è molto più assordante delle esplosioni che ricoprono la città come un sudario di terrore e morte. Restiamo umani. Il 29 dicembre 2008, un lento morire in vano ascolto, nell'aria acre odore di zolfo, lampi spezzano il cielo inframmezzando fragorosi boati, ormai le mie orecchie sono sorde dalle esplosioni e i miei occhi aridi di lacrime dinanzi ai cadaveri. Mi trovo davanti all'ospedale di Al-Shifa, il principale di Gaza, ed è appena giunta la terribile minaccia che Israele avrebbe deciso di bombardare la nuova ala in costruzione. Non sarebbe una novità. Ieri è stata bombardata la clinica Weham, insieme ad un deposito di medicinali a Rafah, l'università islamica distrutta, e diverse moschee sparse per tutta la striscia, oltre a decine di infrastrutture civili. Pare che, non trovando più obiettivi sensibili, l'aviazione e la marina militare si dilettino nel bersagliare luoghi sacri, scuole, ospedali. È un 11 settembre ad ogni ora, ogni minuto da queste parti, e il domani è sempre un nuovo oggi di lutto, di disperazione sempre uguale. Si avvertono gli elicotteri e gli aerei costantemente in volo, quando vedi il lampo si è già spacciato, è troppo tardi per mettersi in salvo. Non esistono bunker antibombe su tutta la striscia, nessun posto è sicuro. Non riesco a contattare più amici a Rafah, neanche quelli che abitano a nord di Gaza City. Spero solo perché le linee sono intasate. Ci spero. Sono 60 ore che non chiudo occhio, e con me tutti i Gazawi. Ieri con altri tre compagni dell'IS abbiamo trascorso la nottata all'ospedale di Al-Hawada, nel campo profughi di Jabalia, e ci siamo andati perché temevamo il tanto paventato incursione di terra che poi non si è verificata. Ma i carri armati israeliani stazionano pronti lungo tutto il confine della striscia. I loro cingoli pare si metteranno in marcia funerea questa notte. Verso le 23:30 una bomba è precipitata a circa 800 metri dall'ospedale. L'onda d'urto ha mandato in frantumi alcune finestre, aggravando le condizioni dei pazienti già feriti. Un'ambulanza si è recata sul posto, hanno tirato giù una moschea, fortunatamente vuota quell'ora. Sfortunatamente, anche se non di sfortuna si tratta, ma di volontà criminale terroristica di Israele nel compiere stragi di civili. L'esplosione ha travolto anche l'edificio adiacente alla moschea, distruggendolo. Abbiamo visto tirare fuori dalle macerie i corpi di 6 sorelline, 5 sono morte, una è gravissima. Hanno adagiato le bambine sull'asfalto carbonizzato e sembravano bamboline rotte, buttate via perché inservibili. Non è un errore, è volontario cinico orrore. Siamo a quota 320 morti, più di un migliaio i feriti. Secondo un medico di Shifa, il 60% è destinato a morire nelle prossime ore, nei prossimi giorni di una lunga agonia. Decine sono i dispersi. Negli ospedali donne disperate cercano i mariti o i figli da 2 giorni, spesso invano. È uno spettacolo macabro all'obitorio. Un infermiere mi ha raccontato di una donna palestinese che, dopo ore di ricerca fra i pezzi di cadaveri conservati nelle celle frigorifere, ha riconosciuto suo marito da una mano amputata. Tutto quello che di suo marito è rimasto è la fede ancora al dito dell'amore eterno che si erano ripromessi. Di una casa abitata da 2 famiglie rasa al suolo è rimasto ben poco, dei corpi umani seppelliti sotto. Ai parenti hanno mostrato un mezzo busto e 3 gambe. Proprio in questo momento una delle nostre barche del Free Gaza Movement sta lasciando il porto di Larnaca, Cipro. Ho parlato con i miei amici a bordo, eroici, hanno ammassato medicinali un po' dappertutto sull'imbarcazione. Dovrebbe approdare al porto di Gaza domani verso le 8, sempre che il porto esista ancora dopo un'altra notte di bombardamenti continui. Starò in contatto con loro tutto questo tempo. Qualcuno fermi questo incubo. Rimanere immobili in silenzio significa sostenere il genocidio in corso. Urlate la vostra indignazione in ogni capitale nel mondo civile, in ogni città, in ogni piazza. Sovrastate le nostre urla di dolore e di terrore. C'è una parte di umanità che sta morendo in pietoso ascolto. Restiamo umani. Gennaio. Non lascerò il mio paese. Il dentifricio, lo spazzolino, le lamette e la mia schiuma da barba. I vestiti che indosso, lo sciroppo per curarmi una brutta tosse che mi affligge da settimane, le sigarette comprate per Ahmed, il tabacco per il mio narghilè, il mio telefono cellulare, il computer portatile su cui batto e befrenico per tramandare una testimonianza dell'inferno circostante. Tutto il necessario per una vita umile e dignitosa a Gaza proviene dall'Egitto ed è arrivato sugli scaffali dei negozi del centro, passando attraverso i tunnel. Gli stessi tunnel che caccia F-16 israeliani hanno continuato a bombardare massicciamente nelle ultime 12 ore, coinvolgendo nelle distruzioni le migliaia di case di Rafah vicino al confine. Un paio di mesi fa mi sono fatto sistemare 3 denti malconci. Alla fine dell'intervento ricordo che ho chiesto al mio dentista palestinese dove si procurava tutto il materiale odontotecnico, anestetico, siringhe, corone in ceramica e ferri del mestiere. Sornione, il dentista, mi aveva fatto un cenno con le mani, da sottoterra. Non vi è alcun dubbio che attraverso i cunicoli sotto Rafah passavano anche esplosivo e armi, le stesse che la resistenza sta impiegando oggi per cercare di arginare la temibile avanzata dei mortiferi blindati israeliani. Ma è poca cosa rispetto alle tonnellate di beni alimentari e di consumo che confluivano in una Gaza ridotta alla fame da un criminale assedio. Su internet è facile reperire foto che documentano come anche il bestiame passava il confine con l'Egitto attraverso il tunnel. Capre e bovini addormentati e imbragati venivano calati in un pozzo egiziano per riemergere da quest'altra parte e rifornire Gaza di latte, formaggi e carne. Anche i principali ospedali della striscia si approvvigionavano clandestinamente. I tunnel erano l'unica risorsa che ha consentito alla popolazione palestinese di sopravvivere all'assedio. Un assedio che qui, ben prima dei bombardamenti, causa un tasso di disoccupazione del 60% e costringeva l'80% delle famiglie a vivere di aiuti umanitari. I nostri compagni dell'ISM Arafat ci descrivono l'ennesimo esodo a cui stanno assistendo. Carovane di disperati che su carretti trainati da muli o sopra mezzi di fortuna stanno lasciando le loro case dinanzi all'Egitto. Copione già visto. I giorni precedenti erano piovuti dal cielo volantini che intimavano l'evacuazione. Israele mantiene sempre le sue minacce. Ora stanno piovendo bombe. Gli sfollati di oggi passeranno la notte da parenti, amici e conoscenti a Gaza. Nessuno si fida più ad andare ad affollare le scuole delle Nazioni Unite dopo il massacro di Jabalia. Moltissimi però non si sono mossi perché non hanno alcun posto dove riparare. Passeranno la notte pregando un Dio che li scampi alla morte, dato che nessun uomo pare interessarsi alle loro esistenze. Finora sono 768 i morti palestinesi, 3.129 i feriti, 219 i bambini uccisi. Il computo delle vittime civili israeliane, fortunatamente, è ancora fermo a quota 4. A Zaytun, quartiere a est di Gaza City, le ambulanze della Croce Rossa hanno potuto accorrere sul luogo di una strage solo dopo diverse ore, coordinandosi con i vertici militari israeliani. Quando sono arrivati, hanno raccolto 17 cadaveri e 10 feriti, tutti della stessa famiglia Al-Samuni. Una esecuzione perfetta. Sui corpicini dei bambini morti è possibile notare non schegge di esplosivo, ma fori di proiettile. Le ultime 2 notti negli ospedali di Gaza City sono state più tranquille del solito. Abbiamo soccorso decine di feriti e non centinaia. Evidentemente dopo la strage della scuola di El Fahura, l'esercito israeliano ha sfondato il budget settimanale di morti civili da offrire in pasto al governo in vista delle imminenti elezioni. Abbiamo sentore che già da stanotte torneranno a riempire gli obitori fino a scoppiare. A sirene spiegate continuiamo a scortare negli ospedali donne gravide che partoriscono prematuramente, come se la natura, la conservazione della specie, inducesse queste madri coraggio ad anticipare la messa al mondo di nuove vite per sopperire al crescente numero di morti. Il primo vagito di questi neonati, quando sopravvivono, sovrasta per un attimo il boato delle bombe. Leila, compagna dell'ISM, ha chiesto ai figli dei nostri vicini di casa di scrivere dei pensieri sull'immane tragedia che stiamo vivendo. Ecco alcuni stralci dei loro temi gli orrori della guerra osservati da uno sguardo puro e innocente, quello dei bambini di Gaza. Suzanne, 15 anni. La vita a Gaza è molto difficile. In realtà non si può descrivere tutto. Non possiamo dormire, non possiamo andare a scuola o studiare. Proviamo molte emozioni. A volte abbiamo paura e ci preoccupiamo perché gli aerei e le navi colpiscono 24 ore su 24. A volte ci annoiamo perché durante il giorno non c'è elettricità e la notte ce l'abbiamo solo per circa 4 ore. E quando c'è, guardiamo il notiziario in TV. E vediamo bambini e donne feriti o morti. Così viviamo l'assedio e la guerra. Fatma, 13 anni. È stata la settimana più difficile della mia vita. Il primo giorno eravamo a scuola a dare l'esame del primo trimestre. Poi sono iniziate le esplosioni e molti studenti sono stati uccisi o feriti. E gli altri sicuramente hanno perso un parente o un vicino. Non c'è elettricità, cibo o pane. Che possiamo fare? Sono gli israeliani. Tutti nel mondo festeggiano il nuovo anno. Anche noi lo festeggiamo, ma in modo diverso. Sara, 11 anni. Gaza vive in un assedio, come in una grande prigione. Niente acqua, niente elettricità. La gente ha paura e non dorme la notte e ogni giorno nuove persone vengono uccise. Fino ad ora più di 700 sono state uccise e più di 3.000 ferite. E gli studenti davano gli esami del primo trimestre. Così Israele ha colpito le scuole, il Ministero dell'Educazione e molti ministeri. Ogni giorno la gente chiede quando finirà e aspettano altre navi di attivisti come Vittorio e Leila. Darwin, 8 anni. Sono una bambina palestinese e non lascerò il mio paese. Così avrò molti vantaggi, perché non lascerò il mio paese e sento il rumore di razzi, così non lascerò il mio paese. Maryam ha 4 anni. I suoi fratellini le hanno chiesto: cosa provi quando senti razzi? E lei ha detto: ho paura. E subito è corsa a nascondersi dietro le gambe del papà. Gaza è mestamente avvolta nell'oscurità da 10 giorni. Solo negli ospedali ci è concesso ricaricare computer e cellulari e guardare la televisione con i medici e i paramedici in attesa di una chiamata di soccorso. Ascoltiamo i boati in lontananza. Dopo qualche minuto le reti satellitari arabe riferiscono esattamente dove è avvenuta l'esplosione. Spesso ci riguardiamo sullo schermo trarre fuori dalle macerie i corpi, come se non bastasse averli visti in diretta. Ieri sera col telecomando sono capitato su una televisione israeliana. Davano un festival di musica tradizionale con tanto di soubrette in vestitini succinti e fuochi artificiali finali. Siamo tornati al nostro orrore, non sullo schermo, ma sulle ambulanze. Israele ha tutti i diritti di ridere e cantare anche mentre massacra il suo vicino di casa. I palestinesi chiedono solo di morire di una morte diversa, che so, di vecchiaia. Restiamo umani. Gennaio 2009, hanno ucciso Ippocrate. A Gaza un plotone di esecuzione ha messo al muro Ippocrate, ha puntato e ha fatto fuoco. Le allucinanti dichiarazioni di un portavoce dei servizi segreti israeliani, secondo cui l'esercito ha ottenuto via libera a sparare sulle ambulanze perché si presume che a bordo ci siano membri della resistenza palestinese, rendono il senso del valore dato da Israele alla vita in questi giorni, la vita dei nemici, si intende. Vale la pena di ricordare il giuramento di Ippocrate a cui è tenuto ogni medico prima di iniziare a esercitare la professione, in particolare in questo passaggio. Consapevole dell'importanza della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica. Sono 9 i camici bianchi uccisi dall'inizio dei bombardamenti, una decina le ambulanze colpite dall'artiglieria israeliana. I sopravvissuti tremano di paura, ma non si tirano indietro. I lampeggianti cremisi delle ambulanze sono gli unici squarci di luce lungo le strade delle notti oscure di Gaza, esclusi i lampi che precedono le esplosioni. Piero Etta, capo della Croce Rossa a Gaza, denuncia: le sue ambulanze sono potute accorrere sul luogo di un massacro a Zaitun, est di Gaza City, solo 24 ore dopo l'attacco israeliano. I soccorritori dichiarano di essersi trovati dinanzi uno scenario raccapricciante: 4 bambini piccoli vicino ai corpi senza vita delle loro madri in una delle case. Erano troppo deboli per reggersi in piedi. È stato trovato vivo anche un uomo, anche lui troppo debole per reggersi in piedi. In tutto sui materassi giacevano 12 corpi. Testimoni di questa ennesima carneficina raccontano come i soldati israeliani, penetrati nel quartiere, abbiano radunato le decine di membri della famiglia al-Samouni in un solo edificio per poi bombardarlo ripetutamente. Coi miei compagni dell'ISB sono giorni che giriamo sulle ambulanze della Mezzaluna Rossa subendo molteplici attacchi. Sulle ambulanze il nostro dovere è raccogliere feriti, non accogliere a bordo guerriglieri. E quando troviamo riverso per strada un uomo ridotto ad un ammasso di sangue, non si ha il tempo di controllare i suoi documenti, chiedergli se parteggia per Hamas o Fatah, anche perché quasi sempre i feriti, come i morti, non rispondono. Alcuni giorni fa, mentre caricavamo un ferito grave, ha cercato contemporaneamente di salire sull'ambulanza anche un altro uomo, ferito in maniera più lieve. Lo abbiamo spintonato fuori, proprio perché sia chiaro a chi ci spia dal cielo che non fungiamo da taxi per il trasporto di membri della Resistenza. La notte scorsa è arrivata all'ospedale di Al-Quds di Gaza City Miriam, 17 anni, in preda alle doli. Al mattino erano passati nello stesso ospedale suo padre, sua cognata, entrambi cadaveri, vittime di uno dei tanti bombardamenti indiscriminati sui civili. Durante la notte Miriam ha partorito un bel bimbo, inconsapevole del fatto che mentre lei si trovava in sala parto, un piano più in basso, all'obitorio, era giunto anche il giovane marito. Alla fine, persino le Nazioni Unite si sono accorte che qui a Gaza siamo tutti immersi nello stesso catino, bersagli mobili per ogni cecchino. Siamo arrivati a quota 789 vittime, 3.300 i feriti, 410 vertono in situazione critica, 230 i bambini uccisi, decine e decine di dispersi. Il computo delle vittime civili israeliane, fortunatamente, è sempre fermo a quota 4. Per bocca di John Jin, capo dell'UNRWA, Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, le Nazioni Unite hanno annunciato la sospensione delle loro attività umanitarie lungo la striscia. Ho incrociato Jin negli uffici dell'agenzia di stampa Ramata e l'ho visto sdegnato agitare il suo indice accusatorio contro Israele davanti alle telecamere. L'ONU cessa le sue attività a Gaza dopo che due dei suoi operatori sono stati uccisi ieri, beffa voluto durante 3 ore della solita tregua che Israele ha annunciato e non ha rispettato. I civili di Gaza hanno a disposizione 3 ore al giorno per cercare di sopravvivere. I soldati israeliani, le restanti 21, per cercare di sterminare. Ho sentito Jin dichiarare a 2 passi da me. Da Gerusalemme mi scrive Yasmin, moglie di uno dei numerosi giornalisti in fila al valico di Erez, in attesa di un lascia passare che Israele stenta a concedere. È vietato raccontare questo massacro dall'interno. Queste le sue parole. L'altro ieri sono andata a vedere Gaza dal di fuori. I giornalisti del mondo sono tutti ammucchiati su una collinetta di sabbia a un paio di chilometri dal confine. Decine di telecamere puntano verso di voi. Si sentono aerei che si sorvolano, ma non si vedono. Sembrano solo illusioni mentali finché non si vede il fumo nero salire all'orizzonte. La collina è diventata anche meta turistica per gli israeliani. Con grandi binocoli e macchine fotografiche vengono a vedere i bombardamenti dal vivo. Mentre sto raccontando, trascrivendo questa corrispondenza, una bomba cade nel palazzo a fianco a quello in cui mi trovo. I vetri tremano, i timpani fanno male. Mi affaccio dalla finestra e vedo che hanno colpito l'edificio dove sono concentrati i principali media arabi. È uno dei palazzi più alti di tutta Gaza City, l'Al Yafara Building. Sul tetto tengono fissa una troupe con telecamera, li osservo ora contorcersi a terra, agitare le braccia invocando aiuto avvolti da una cappa nera di fumo. Paramedici e giornalisti, le professioni più eroiche in questo spicchio di mondo. All'ospedale Al-Shifa ieri sono andato a trovare Tamin, reporter sopravvissuto a un bombardamento aereo. Mi ha spiegato come secondo lui Israele sta adottando le stesse identiche tecniche terroristiche di Al-Qaeda. Bombarda un edificio, attende l'arrivo dei giornalisti e dei soccorsi, quindi fa cadere un'altra bomba che fa strage di questi ultimi. A suo avviso è per questo motivo che si sono registrate molte vittime fra i paramedici e i reporter, gli infermieri attorno al suo letto acconsentano. Tamin mi ha voluto mostrare sorridendo i suoi moncherini. Ha perso le gambe, ma è felice di essersela cavata, al contrario del suo collega Mohamed, ucciso da una seconda esplosione mentre scattava delle foto. Nel frattempo mi sono informato per la bomba appena caduta nel palazzo qui vicino, sono rimasti feriti due giornalisti, entrambi palestinesi, uno della Lebanon TV, l'altro della Dubai Television. Un altro sonoro avvertimento da chi esige che questo massacro di vittime civili non venga in alcun modo raccontato. Non mi resta che augurarmi che nel quartier generale dei vertici militari israeliani non si legga il manifesto, né vi siano affezionati visitatori nel mio blog. Restiamo umani. Gennaio 2009. I figli di un Allah minore continuano a espiare l'eredità di un odio tramandato di generazione in generazione per una colpa che non hanno commesso. I soldati israeliani si calano alla perfezione nel ruolo di tanti erode contemporanei. Sono già 253 i bimbi palestinesi massacrati in questo attacco. Un orrore senza fine, per il quale nessun soldato, nessun ufficiale dell'esercito, nessun governo israeliano sarà mai messo dinanzi alle sue responsabilità di criminale di guerra. Se per qualche ora queste vittime innocenti vengono graziate, non è così per i luoghi che ospitano i loro giochi, i sogni e le ambizioni di diventare adulti, quei padri e quelle madri che a loro sono stati strappati. Gli orfanotrofi sono diventati il nido preferito per gli uccelli meccanici israeliani. Negli orfanotrofi caccia vanno a deporre le loro bombe. I compagni dell'ISM da Rafa mi scrivono: domenica 11 gennaio, approssimativamente alle 3 del mattino, caccia F-16 hanno bombardato il centro per orfani dell'associazione Dar al-Fadila, che includeva una scuola, un college, un centro informatico e una moschea in Taha Hussein Street, nel quartiere Kerbat al-Adas, a nord-est di Rafa. Parte degli edifici sono andati completamente distrutti e quelli ancora in piedi sono seriamente danneggiati. La scuola assisteva circa 500 bambini senza più genitori. La personalissima jihad israeliana contro i luoghi sacri dell'Islam lungo la striscia continua nel silenzio assenso della comunità internazionale. Contando la moschea di Kerbat al-Adas, sono 20 le moschee finora rase al suolo. Fortunatamente nessun razzo Qassam ha ancora sfiorato le pareti di una sinagoga, altrimenti siamo certi che avremmo giustamente avvertito levarsi al cielo grida di sdegno da ogni angolo del mondo. Dio deve pagare il dazio di ricevere preghiere dai palestinesi. Delle quasi 950 vittime, l'85% sono civili. L'infernale macchina di distruzione israeliana continua lentamente ad avanzare e ad avvolgere tutta Gaza, abbattendo case, scuole, università, ospedali, senza nessun tangibile segnale né volontà sanzionatoria da parte dei governi occidentali. È giunto allora il nostro turno, di semplici cittadini senza cittadinanza, se non quella di ritenerci appartenenti a una sola e unica comunità di persone, la famiglia umana. È ora che infiliamo un bastone in questo maledetto ingranaggio infernale. Ho incontrato il dottor Aida Reid, professore dell'Università Al-Quds di Gaza City. Un intellettuale di sinistra, coriaceo insieme a ilare, passionale, generoso, come in Italia non se ne vedono più, estinti o deposti in qualche seminterrato della memoria, perché non riciclabili con la divisa bipartisan che fa marciare a braccetto post-fascisti e post-comunisti, uniti in comune litania a giustificare Israele dopo ogni suo massacro. Haidar dinanzi a me si fa portavoce del PACBI, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, e del BDS, Boycott, Divestment and Sanctions Campaign National Committee, e con lui ho discusso di boicottaggio. La storia insegna, ma non ha alunni, e Mandela e Mahatma Gandhi sono al momento impossibilitati a concedere ripetizioni. Ma c'è la storia particolare del Sudafrica a indicarci la strada per costringere un Israele razzista e colonialista a giungere a un compromesso. Allora, non boicottare quel regime di apartheid fu considerato un po' come esserne complici. Cosa cambia oggi? Come me, la stragrande maggioranza dei palestinesi non crede che la miglior risposta all'occupazione israeliana e a questo massacro in corso siano gli attentati, i kamikaze e i razzi Sderot. Il boicottaggio è pacifista, non violento, la migliore risposta umanamente accettabile all'imbarbarimento di un conflitto che rende disumano ogni gesto. La migliore arma nell'arsenale della non violenza, come ci ha ricordato Naomi Klein in un recente editoriale sul Guardian. Haidar riesce a trarre qualcosa di positivo dalla pozza di sangue in cui stiamo annegando, come fu dopo il massacro di Sharpeville in Sudafrica, 21 marzo 1960, quando 78 neri furono fatti a pezzi per volontà di un regime barbaro e il mondo si sentì in dovere di dire basta. L'incomparabile massacro di 1000 civili palestinesi potrebbe dare il via a un'altrettanto forte campagna di mobilitazione per punire i crimini israeliani. Haidar è anche uno dei fautori di Israele e Palestina uniti in un unico Stato, secolare, democratico e interreligioso, per lui l'unica e pragmatica via d'uscita da un conflitto che non vede altre risoluzioni. Più intimamente mi parla della Nakba, che lui ha scampato per pochi anni, pur avendola intensamente rivissuta nei racconti dei suoi familiari. Mi parla a chiare lettere, lui figlio della post-catastrofe, di come la Nakba è stata tramandata e ha alimentato l'inconscio collettivo di migliaia di palestinesi. L'incubo si è rifatto vivo bussando sui tetti delle case il 27 dicembre 2008 e da allora non smette di provocare notti insonni. Haidar mi invita a divulgare e io registro sul mio taccuino lacero il suo appello per tutti gli italiani a non comprare più alcun prodotto made in Israel. I prodotti israeliani si riconoscono sugli scaffali con il codice a barre che li contraddistingue, 729 le cifre iniziali. Per ricavare la lista completa dei prodotti è possibile accedere al sito boycottisraeligoods.org. Stampatevi la lista, appiccicatela sulla porta del frigo, infilatela nella borsa di vostra madre o di vostra moglie quando si recano al mercato. Se compri anche un solo bicchiere d'acqua proveniente da Israele, di fatto compri anche un proiettile che prima o poi andrà a conficcarsi nel cuore di uno dei nostri figli. Il movimento di boicottaggio, che ha visto la luce nel 2005 in Palestina, sta facendo passi da gigante e si diffonde fra milioni di consumatori nel mondo. Il presidente venezuelano Chavez, che ha espulso l'ambasciatore israeliano e cessato ogni rapporto con lo Stato che sta strangolando la Palestina, dovrebbe essere da esempio a tutti i politici nostrani. I leader sudafricani della lotta contro il regime d'apartheid, Mandela, Ronnie Casalis e Desmond Tutu, affermano che l'oppressione israeliana contro i palestinesi è di gran lunga peggiore di quella del Sudafrica, voci senz'altro più autorevoli di Frattini e di Fassino. Diversi ebrei israeliani si sono uniti alla campagna di boicottaggio, circa 500 finora, fra i quali Ilan Papp e Neta Golan, sopravvissuti all'Olocausto, che gridano mai più. Il poeta israeliano Aaron Shabtai ci invita ad agire. Io spero nell'aiuto degli europei, che i discendenti di Voltaire e Rousseau aiutino Israele, perché Israele non porrà fine all'occupazione fin quando l'Europa non gli dirà basta. Solo una pressione da parte dei paesi civili e democratici può cambiare la situazione e riportarci la felicità. La situazione attuale, in cui a dettar legge è l'esercito, non può essere cambiata dall'interno. Per i valori di cui è portatrice, l'Europa non può continuare a collaborare con Israele. 729 deve diventare la nostra Shoah. Mai più. Restiamo umani. Gironi infernali di Jabalia. Dante non avrebbe saputo immaginare gironi dei dannati così infernali come le corsie negli ospedali di Jabalia. La legge del contrappasso qui applicata al contrario: tanto più è innocente la vittima, tanto meno viene risparmiata dal martirio delle bombe. Al Kamalo Duan Lauda, le piastrelle in ceramica del pronto soccorso sono sempre belle lustre. Gli inservienti hanno sempre un grande affare a ripulirle dal sangue che gronda dall'incessante via vai di barelle cariche di corpi massacrati. Iyad Mutawak stava camminando per strada quando una bomba ha aperto uno squarcio in un edificio poco distante. Insieme ad altri passanti si era precipitato a prestare soccorso, mentre un secondo ordigno colpiva il palazzo, uccidendo un padre di 9 figli, 2 fratelli e un altro passante che al pari di Iyad era corso sul posto per aiutare i feriti. La solita storia ripetuta 10-100 volte, la tecnica preferita di ogni terrorismo ricalcata alla perfezione dall'armata israeliana Zahal. Si lanciano bombe, si attendono i soccorsi, si rimbombardano feriti e soccorritori. Per Iyad queste sono bombe americane, ma portano l'autografo anche di Mubarak, il presidente dittatore egiziano che qui a Gaza fa concorrenza a Olmert, incapacità di catalizzare livore. Dietro il letto di Iyad un anziano con le braccia ingessate sta disteso con gli occhi fissi al soffitto e non proferisce più parola. Mi dicono che ha perso tutto, famiglia e casa. Fissa le crepe dell'intonaco che cade a pezzi come per cercare una risposta alla disfatta della sua esistenza. Khaled ha lavorato 25 anni in Israele, prima dell'ultima intifada. Come gratifica, Tel Aviv non gli ha concesso una pensione, ma una serie di missili aria-terra sulla sua casa. Su tutto il corpo ha ferite da schegge di esplosivo. Gli chiedo dove andrà a vivere una volta dimesso dall'ospedale. Mi risponde dove stanno ora i suoi parenti, per strada. Come la sua sono tante le famiglie che non sanno più dove rifugiarsi. I più fortunati trovano ospitalità da parenti e conoscenti, come abbiamo verificato, ma si può definire vita quella di 100 persone stipati in 2 appartamenti di 3 stanze ciascuno? 2 bombe sull'abitazione di Hakm e Jaber hanno messo in fuga la sua famiglia, ma troppo tardi. Una terza esplosione ha sepolto sotto le macerie 7 suoi familiari, tra cui 2 bambini di 8 e 9 anni, suoi vicini di casa. Dice: ci hanno fatto fare un salto all'indietro nel 1948. Questo è il supplizio per il nostro attaccamento alla patria. Possono staccarmi le braccia e le gambe dal tronco, ma non mi lasceranno mai abbandonare la mia terra. Un medico mi prende in disparte e mi confida che la figlia di 7 anni di Ahmed è arrivata in pezzi. Stava contenuta in una minuscola scatola di cartone. Non hanno avuto il coraggio di riferirglielo per non deteriorare le sue già precarie condizioni di salute. In serata anche a Iyad hanno portato via il telefono per non fargli arrivare cattive notizie. Un tank ha centrato la casa della sorella, decapitandola. Alla fine la nostra imbarcazione del Frigaza Movement non è giunta al porto di Gaza. A 100 miglia dalla meta disegnata in acque internazionali è stata intercettata da 4 navi da guerra israeliane, disposte a far fuoco e ammazzare il nostro carico di medici, infermieri e attivisti per i diritti umani. Nessuno deve ostacolare la mattanza di civili che continua ininterrottamente da 3 settimane. A est di Jabalia, dinanzi al confine, testimoni oculari parlano di decine di corpi in putrefazione per le strade, le loro carni putrescente divorate dai cani. Ci sono anche centinaia di persone impossibilitate a muoversi, diverse sono ferite, le ambulanze non possono arrivare nell'area perché ovunque ci sono cecchini che sparano. I palestinesi sono stanchi di essere massacrati nell'indifferenza generale e in molti accusano anche la Croce Rossa Internazionale, l'ONU, di non fare abbastanza, di non ottemperare in pieno il loro dovere, di non rischiare la loro vita per salvarne centinaia di altre. Andremo noi dell'International Solidarity Movement a piedi, con delle barelle, laddove l'umanità ha oltrepassato i suoi confini e si è eclissata. I soloni coi culi di pietra appoggiati nei salotti buoni della politica discettano di strategie belliche di guerra contro Hamas, mentre qui ci stanno letteralmente massacrando, bombardano gli ospedali e c'è ancora si pronuncia sul diritto di Israele all'autodifesa. In qualsiasi stato che si definisca minimamente civile, l'autodifesa è proporzionale all'offesa. In questi 20 giorni abbiamo contato 1.075 vittime palestinesi, più di 5.000 feriti, dei quali oltre la metà sono minori di 18 anni, 303 i bambini orrendamente trucidati. Fortunatamente solo 4 vittime civili israeliane. Come a dire che per Israele il giusto bagno di sangue per vendicare ognuno dei suoi civili ammazzati è quello di sterminarne almeno 250 della parte avversa. Ditemi voi se questa sproporzione fra difesa e offesa non vi riporta agli eccidi compiuti come rappresaglia nelle pagine più nere della storia moderna europea. Ma veniamo al punto. Si tratta di legittima difesa? Ai Marco Travaglio, ai Piero Stellino, ai Pierluigi Battista e agli Angelo Panebianco che insistono con la loro solfa imputando ad Hamas la responsabilità di questo genocidio in quanto trasgressore della tregua fra Israele e Palestina, vorrei ricordare la posizione delle Nazioni Unite. Il professor Richard Falk, relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso idee chiare in proposito. Israele ha di fatto rotto la tregua in novembre, sterminando bellamente 17 palestinesi. Nel mese di novembre si erano registrate 0 vittime israeliane, 0 vittime come in ottobre, come nel mese precedente e in quello precedente ancora. Lo ha ricordato recentemente anche l'ex presidente USA, premio Nobel Jimmy Carter. Dispiace che giornalisti come Travaglio, che stimavamo perché estremo baluardo di un'informazione libera e quanto più possibile veritiera, si siano messi l'elmetto dell'esercito israeliano e intrattengano le masse dinanzi al tubo catodico, dilettandosi nello sport più di moda da queste parti. Il tiro a segno sugli infanti. Batto i tasti in un ufficio dell'agenzia di stampa Ramatam. Attorno i reporter palestinesi vestono i giubbotti antiproiettili ed elmetti. Non tornano, né stanno per recarsi dinanzi ai carri armati. Siedono semplicemente davanti ai loro computer. Due piani più sopra, gli uffici della Reuters sono appena stati colpiti da un razzo. 2 feriti gravi. Quasi tutti i piani dello stabile sono vuoti al momento, sono rimasti i giornalisti più eroici. Questo inferno in qualche modo deve continuare a essere raccontato. Poco prima l'esercito israeliano aveva rassicurato la Reuters di non evacuare, di restare negli uffici perché sicuri. Stamane è stato bombardato e distrutto anche l'edificio delle Nazioni Unite, stabile messo in piedi con i soldi del governo italiano. Berlusconi, esisti. Diversi morti e feriti. John Ging, capo dell'UNRWA, parla chiaramente come testimone oculare di bombe al fosforo bianco. Nel quartiere Tal el Hawa di Gaza City, un'ala dell'ospedale di Al-Quds è in fiamme. Imprigionata dentro, insieme a una quarantina fra medici e infermieri e un centinaio di pazienti. C'è anche Leila, nostra compagna dell'International Solidarity Movement. Ci ha raccontato per telefono le loro ultime drammatiche ore. Un carro armato è davanti all'ospedale, i cecchini sono ovunque, sparano a qualsiasi cosa si muova. Tutto intorno la distruzione. Nella notte hanno visto dalle loro finestre un edificio colpito dalle bombe incendiarsi e udito le urla di terrore di intere famiglie, di bimbi, implorare aiuto. Non hanno potuto muoversi e, impotenti, hanno osservato quei corpi arsi dal fuoco riversarsi in strada e ridursi in cenere. L'inferno si è rivoltato e al suo centro, nel cuore pulsante di Gaza, ci siamo noi, i dannati di un odio inumano. Restiamo umani. Restiamo umani, The Reading Movie, dal libro Gaza, Restiamo umani, di Vittorio Arrigoni. Presentazione, capitolo 1, Guernica in Gaza, legge Egidia Beretta Arrigoni. Capitolo 2, Un lento morire, in vano ascolto, legge Massimo Arrigoni. Capitolo 9, Non lascerò il mio paese, legge Moni Ovadia. Capitolo 10, Hanno ucciso Ippocrate, legge Don Andrea Gallo. Capitolo 13, Figli di un Allah minore, legge Maria Elena Delia. Capitolo 14, I gironi infernali di Giabilia, legge Luisa Morgantini. Musiche Fulvio A. T. Renzi, Emanuele Wilsch Barberio, Pachi Zennaro. L'agenda della settimana con Anna Maria Selini, autrice del libro Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Vittorio Arrigoni, di cui il 15 aprile 2021 ricorre il decennale dall'omicidio. Anna Maria, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. Ce ne parli? Io ho conosciuto Vittorio Arrigoni nel 2009 in realtà. L'ho conosciuto a Gaza subito dopo l'operazione militare Piombo Fuso, che è quella che lo ha reso famoso, lo ha reso celebre, perché Vittorio era l'unico italiano dentro la striscia di Gaza durante l'operazione israeliana, appunto la striscia che è durata 23 giorni. Nonostante gli inviti ad uscire, lui ha deciso di rimanere. Vittorio era un cooperante, un attivista per i diritti umani, ed è rimasto dentro la striscia raccontando quello che succedeva. Va tenuto in considerazione che Israele aveva impedito l'ingresso dei corrispondenti stranieri, dei giornalisti stranieri dentro Gaza, quindi Vittorio e chi come lui è riuscito a rimanere dentro la striscia ha avuto un ruolo fondamentale, perché ha raccontato quei giorni, è stato un testimone sul campo di quello che stava succedendo dentro la striscia, non solo durante Piombo Fuso, ma fino all'ultimo dei suoi giorni. Vittorio Arrigoni è arrivato a fine 2008 a Gaza ed è stato ucciso nell'aprile del 2011 e non ha mai smesso di raccontare e testimoniare quello che succedeva dentro la striscia. Per chi non conoscesse la vicenda, raccontiamo anche un po' quello che è stato il suo omicidio. Vittorio è stato rapito da un gruppo formato quasi interamente da palestinesi e nel giro di nemmeno 48 ore è stato ucciso. A capo di questo gruppo c'era un presunto leader giordano, dico presunto perché sappiamo veramente poco di questo leader, che è stato poi ucciso in un blitz da Hamas. Hamas è la forza, il partito politico che governa Gaza, considerato da Israele e da altri stati una forza terroristica. In queste poche ore è stato rapito, è stato girato un video, è stato chiesto uno scambio con uno sceicco salafita che era stato incarcerato pochi mesi prima da Hamas, ma in realtà prima della scadenza dell'ultimatum che è stata data dagli stessi rapitori, Vittorio è stato strangolato e ucciso. Hai conosciuto Vittorio? Cosa è stata questa esperienza per te? Che ritratto hai di questa persona? Sicuramente, come dico nel mio libro, incontrare Vittorio Arrigoni è stato un po' come scontrarsi con un personaggio in fuga da un romanzo. Vittorio Arrigoni era un uomo decisamente straordinario, nel senso letterale del termine, fuori dall'ordinario, era una persona che si incontra raramente. Un uomo che ha deciso di dedicare la propria vita agli altri, alla difesa dei diritti umani. I suoi unici ideali, il suo unico credo era appunto il rispetto della giustizia e dei diritti umani. E questo l'ha portato a girare il mondo per anni, è stato in tutto il mondo come volontario per piccole ONG, finché a un certo punto è arrivato in Palestina e ha scelto proprio Gaza perché diceva che era la più grande di tutte le ingiustizie, quindi ha scelto di rimanere lì e di stare lì. E da giornalista era inevitabile raccontare una persona come Vittorio, che già proprio a prima vista aveva qualcosa di eccezionale, di straordinario, aveva una personalità molto forte, aveva un modo di porsi molto forte, anche fisicamente, utilizzava il proprio fisico, la propria prorompenza per veicolare il suo messaggio. È stato molto bravo, è stato uno degli antesignani da questo punto di vista, ha capito il potere dei social, ha capito il potere di Facebook, aveva un blog molto seguito, durante il Piombo Fuso è stato il blog in Italia più seguito in assoluto, e era un grande comunicatore, anche se lui non si definiva un giornalista, di fatto è stato un giornalista anche. 10 anni dopo hai deciso di scrivere di questo vostro incontro? Sì, in realtà io avevo già realizzato un documentario d'inchiesta che si è trasmesso dalla RAI nel 2012, perché dopo l'omicidio di Vittorio io sono tornata a Gaza e ho cercato di fissare i pochi elementi che c'erano, no? E che sono rimasti di questa storia. Dopodiché sono tornata nel 2019 sulla sua vicenda, su questo omicidio, e ho deciso di raccontarlo in un libro. E per quanto riguarda i palestinesi e le palestinesi, è un ricordo vivo in loro? Sì, è un ricordo molto vivo. I palestinesi sono stati i primi a essere profondamente turbati da questa uccisione, tanto che a migliaia si sono recati poi nei giorni in cui sono state dedicate le cosiddette tende funebri al ricordo di Vittorio. Migliaia si sono recati a Gaza City, da tutta la striscia, per ricordare Vittorio, per manifestare il proprio sconcerto di fronte a quello che era successo, e tutti hanno ribadito quanto non si riconoscessero in questo. I palestinesi, come molti arabi, sono noti per la loro grande ospitalità, e quindi è molto lontano la loro concezione, no? Uccidere uno straniero che è venuto ad aiutarli, che è venuto a difenderli. Il 15 aprile sarà ricordato in che modo per quanto ti riguarda? Allora, ci sono tantissime iniziative a livello nazionale. Per quello che mi riguarda parteciperò a una diretta Facebook, le informazioni si possono trovare sulla pagina di Vittorio Arrigoni, la pagina Facebook che è aperta, è una diretta con alcune delle persone, diciamo, più importanti della vita di Vittorio, che hanno conosciuto Vittorio già da ragazzo fino agli ultimi giorni, e io sarò lì per raccontarlo e per partecipare, insomma, a questo ricordo. Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Vittorio Arrigoni, di cui il 15 aprile 2021 ricorre il decennale dall'omicidio, un saluto e un ringraziamento all'autrice Anna Maria Sellini. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie a te, buon lavoro! Con Fabio Galadini, direttore artistico della nona edizione del Roma Fringe Festival, online dal Teatro Eliseo e dal Teatro Vascello dal 18 al 24 aprile 2021. Ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. Spieghiamo cos'è il Fringe. È un festival internazionale che si fa a Edimburgo e che dal 1947 esiste, e da allora sono questo unico fringe, sono diventati 240. E noi siamo, quelli di Roma, uno dei 240 fringe nel mondo. Noi facciamo da 9 anni, quest'anno la nona edizione, questo fringe, ed è sostanzialmente un festival, un concorso dedicato alle giovani compagnie indipendenti. Ecco, quest'anno abbiamo avuto una larga adesione, purtroppo dobbiamo andare in streaming, e comunque questo fringe ci dà un po' l'idea di quello che accade in Italia nel teatro, appunto, indipendente, cioè fatto da quelle compagnie che non hanno supporti istituzionali, contributi pubblici, grandi produzioni alle spalle, ma che continuano a fare teatro nonostante tutto. Ecco, questo è il fringe. Da tutta Italia quanti lavori? Ne abbiamo selezionati 21 quest'anno. Come sapete, il fringe è aperto a tutti, è aperto a professionisti e non professionisti, a tutti i generi, quindi noi ne abbiamo selezionati 21 che insomma in qualche modo ci danno l'idea dei vari generi, dalla ricerca alla clowneria, quindi una mappatura anche in questo senso di qual è l'attività nell'ambito del teatro, i vari generi. Quest'anno per esempio c'è una prevalenza del sud, cioè abbiamo molte compagnie che provengono da Napoli, da Bari, da Matera, dalla Sicilia, dalla Sardegna, insomma quell'area sembra essere un po' più viva, si arrende di meno rispetto ad altre zone d'Italia, ecco, questo sì. E quindi la mappatura è questo, è chi fa teatro e che continua a farlo nonostante le difficoltà, e soprattutto chi fa generi diversi, e viene fuori un mondo molto vario, molto vivo, ecco sì. Com'è stata la selezione? Ci siamo appunto basati sulle qualità artistiche, ripeto, non i generi, ma il modo, la modalità di produrre uno spettacolo, no? Perché una delle caratteristiche del Fringe è quella dell'agilità. Noi proprio chiediamo spettacoli che possono essere montati e smontati nell'arco di 20 minuti, quindi anche complessi. Questa è una delle caratteristiche del Fringe, quindi questo è un elemento fondamentale, l'agilità dello spettacolo, qualunque esso sia, però deve essere uno spettacolo che può essere fatto in brevissimo tempo in qualunque luogo. E poi naturalmente i temi sociali sono molto ricorrenti. Ecco, per esempio abbiamo cercato di fotografare quali sono i momenti che stanno vivendo in questo momento gli italiani, in particolari condizioni, la maternità, la donna, la condizione femminile. Molti di questi progetti sono nati durante il periodo del lockdown, quindi sono prevalentemente inediti, anche questa è una caratteristica fondamentale di cui noi teniamo in seria considerazione. Poi naturalmente, essendo un Fringe a Roma, c'è una partecipazione anche di compagnie romane, e quindi una delle caratteristiche è appunto che proprio per fornire, dare al pubblico romano spettacoli che non sono stati mai andati in scena a Roma, appunto chiediamo, anzi obblighiamo, che gli spettacoli presentati non debbano essere mai andati in scena a Roma. Questo è proprio per il pubblico romano, per dare la possibilità a Roma di vedere progetti che non sono mai andati in scena. Ci sono molte caratteristiche, queste sono le principali, diciamo così, ma ce ne sono molte altre, diciamo. Come si articoleranno le giornate? Dovevamo andare in scena a gennaio. Abbiamo dovuto rimandare, pensavamo a dopo Pasqua, perché tutta Italia pensava che dopo Pasqua questa tragedia fosse finita, invece non è così, però noi l'abbiamo organizzato come in presenza di pubblico e fino al 27 marzo eravamo quasi sicuri di poter fare il festival in presenza, poi il decreto del 6 aprile e poi oggi avevamo pronto il piano B. E quindi dall'11 al 17 faremo questi spettacoli, 3 al giorno al Teatro Liseo, e colgo l'occasione di ringraziare Luca Barbareschi che ci ha concesso il piccolo per fare questa edizione. E poi questi 21 spettacoli che stanno andando in scena adesso verranno mandati in esclusiva in streaming su una piattaforma, una delle più storiche di settore, teatro.it, e ringraziamo per aver accolto la nostra richiesta. E dal 18 al 24 questi andranno in esclusiva in streaming appunto gratuito su teatro.it, e poi il 26 c'è la finale al Teatro Vascello. Sono 3 anni che il Vascello è solidale con la nostra politica culturale, e quindi Manuela Kusterman, la ringrazio qui per questa continua adesione a questo progetto, lei tra l'altro è presidente di giuria, e quindi il 26 ci sarà questa finale al Vascello, ovviamente anche essa in streaming, perché non crediamo più a quello che si dia alla diceria che prima di aprile si apre i teatri, non ci crediamo, e quindi siamo già attrezzati per andare in streaming. Ecco, questa è l'organizzazione, l'articolazione di questa nona edizione. Roma Fringe Festival online dal Teatro Liseo e dal Teatro Vascello dal 18 al 24 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galadini. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, a presto. Speriamo di vederci in teatro tutti quanti insieme per ricominciare questa avventura post pandemica. Grazie a tutti, grazie a voi. Con Lorenzo Pasquali di Onda d'Urto Teatro e Metà Karma B per presentare la prima edizione di Drag Me Up Queer Art Festival in streaming dal 31 marzo al 30 aprile 2021. Ben trovati. Buonasera. Ciao. Ciao. Alternandovi nelle risposte, tutto bene, grazie. Allora, alternandovi nelle risposte, ci presentate questo progetto? Drag Me Up è forse il primo festival di arte drag che fa diventare l'arte drag da una subcultura a una vera e propria cultura, ecco. Sì, il festival appunto è la sua prima edizione, è un festival all'interno di Contemporaneamente Roma, quindi è sostenuto dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE, e il festival appunto si trova quest'anno nella sua prima edizione totalmente in streaming, quindi possiamo dire che il primo festival italiano di arti queer in streaming. Sì, totalmente virtuale. Lungo un mese come sarà articolato? C'è un programma veramente ben articolato che rappresenta tante realtà diverse, tutte ovviamente filtrate attraverso l'arte drag, ma c'è pop, c'è dragging, performing art, cabaret, stand-up comedy, addirittura anche c'è un tocco anche di opera lirica, un assaggio di opera lirica all'interno di uno degli spettacoli. Quindi sono linguaggi che sono apparentemente molto diversi tra loro, ma in realtà attingono tutti alla stessa gusto che la generazione queer, che la generazione attuale preferisce, ecco. Quindi sono molte forme di espressione che sembrano lontane fra loro, ma in realtà sono molto vicine, come esattamente la generazione fluida di oggi, no? Sì, infatti il festival prevede proprio nello specifico un palinsesto che parte il 31 marzo e si apre appunto con un convegno durante la giornata internazionale per la visibilità transgender, e tutto il programma si svolge fino al 30 di aprile. Nei diversi giorni ci sarà una programmazione diversificata che prevede eventi performativi, incontri, una mostra fotografica, laboratori, ma anche documentari, esatto, ed anche tanti piccoli extra. Sì, ci sono degli spettacoli extra, ci sono dei tutorial di make-up addirittura. Abbiamo cercato di abbracciare anche delle forme di arte nuova, no? Che anche che abbraccia più social, tanto che appunto ci sono anche, oltre a dragmeup.it, che è il nostro sito dove tra l'altro si troveranno tutto il programma e soprattutto si troveranno anche gli streaming degli spettacoli, ci sarà anche appunto un collegamento molto forte con i social network, quindi c'è sia la pagina Instagram che la pagina Facebook della stessa manifestazione. Sì, infatti abbiamo anche creato una Drag Me Up Line, quindi una linea aperta con tutti i nostri pubblici, in maniera tale da entrare in comunicazione, creare questa vicinanza attraverso i social media. Appunto, essendo un festival che vive in una forma immateriale, però appunto ci mancava questo contatto, e questo contatto lo stiamo cercando di ricreare attraverso una serie di azioni che possiamo definire un po' con un termine inglese a audience engagement, un po' per coinvolgere questi pubblici e farli entrare in questa sfera, non so. E anche per far vivere quello che poi fondamentalmente ci è mancato per primi a noi come artisti, cioè il teatro, no? Cioè il contatto del pubblico, quindi è stata un'esigenza nostra in primis, che poi è diventata una cosa più grande, adesso è diventata una cosa grande, ecco. Qual è lo stato dell'arte oggi rispetto alla cultura queer? Io sono Carmelo Carmabì, ti parlo per quello che poi noi stiamo facendo, cioè sicuramente c'è una visibilità internazionale maggiore, e anche in Italia si sta cominciando a parlare di arte queer, ma soprattutto di drag, ecco, perché il focus del nostro festival è anche quello, e quindi sicuramente oggi siamo positivamente colpiti da questo interesse. All'estero è più grande ovviamente, ma il nostro festival tra l'altro è un festival internazionale che nasce per essere internazionale, e anche in Italia però sta succedendo qualcosa, noi siamo spesso invitati in televisione, in tutte le reti, e quindi sicuramente rispetto al passato c'è molto più interesse, quindi è positivo. Poi certo, la pandemia ci ha un po' bloccati tutti a livello di live, di teatro, di contatto proprio con il pubblico, di spettacolo dal vivo, però sai, l'arte è fatta per evolversi, quindi noi abbiamo subito preso la palla al balzo e ci siamo reinventati appunto con il live streaming, e abbiamo dato appunto due assaggi di Cabaret, che è tra l'altro uno degli spettacoli fondamentali di questo festival, che debutta il 10 di aprile. Abbiamo fatto due eventi in live streaming per presentare lo spettacolo, si stava aspettando Cabaret, e poi appunto debutteremo il 10. Sì, è stata una sorta di edizione zero di Drag Me Up qui al festival, e durante questa edizione zero abbiamo visto insomma un interesse da parte del pubblico che solitamente appunto segue le produzioni sia di Onda d'Urto Teatro che di Karma B, e ha trovato appunto questa unione tra queste due strutture come qualcosa di nuovo, qualcosa di unico che si sta creando in questo momento per dar vita appunto a un festival di cui secondo noi insomma ce n'è bisogno. Si sentiva la mancanza, assolutamente. Quali sono le principali rivendicazioni queer? Beh, sicuramente quella dell'uguaglianza e la parità di genere, e anche tutto ciò che riguarda appunto le rivendicazioni di diritti. Quindi in questo momento la legge Zan, no? Che sta in discussione da mesi in Parlamento, bloccata al Senato. Quindi queste sono delle rivendicazioni che come artisti sosteniamo chiaramente, e anche nel festival si discuteranno, soprattutto nella conferenza iniziale, perché ha parecchi ospiti, insomma, ecco. Sì, quindi infatti il festival ogni anno avrà un sottotitolo, un'edizione specifica che vuole trattare determinati argomenti che sono cari al mondo queer. La prima edizione ci siamo dati come obiettivo quello di trattare love speech, ovvero l'utilizzo di un linguaggio inclusivo. Il linguaggio è la prima Esatto, è la prima forma di comunicazione e interazione tra le persone, e appunto l'esistenza di un linguaggio che sia un linguaggio positivo, quindi inclusivo, è fondamentale. Da qui quindi nasce l'edizione Love Speech, che verrà appunto durante il convegno analizzata e affrontata attraverso, no, una discussione tra diversi relatori. E tra l'altro c'è un'iniziativa molto bella che fa parte del festival, è quella di questo video diretto da Adele Tulli, che si basa proprio sul contrario del love speech, cioè sul hate speech, quello che ogni persona LGBTQI+ subisce nel corso della propria vita, quindi gli insulti, tutte le parole negative che a un certo punto però appunto diventano forse un po' anche la nostra forza per rinascere e crescere. Quindi il video è molto bello e ha la presenza di tantissime persone che testimoniano proprio. Questo lo presenteremo proprio il primo giorno, no? Il 31, e poi andrà online e diventerà virale per appunto tutti i nostri social. Sì, sarà proprio la partenza di Drag Me Up. Esatto. Poi invece fra i relatori del talk, Drag Me Up Talk, ci sarà... sarebbe in pratica il convegno che il 31 marzo dal Teatro Biblioteca Quarticciolo avrà vita attraverso una diretta streaming su Facebook. Sì. E all'interno appunto di questo convegno, che sarà un convegno quindi virtuale su Zoom però trasmesso in diretta, interverranno diversi ospiti, e questi diversi ospiti sono stati interrogati a rispondere a diverse tematiche appartenenti appunto al mondo queer, al mondo drag. Abbiamo Eugenia Romanelli, che è la direttrice di Rewriters.it, poi ci stanno Gianluca Di Laura e Lorenzo Piccolo, che sono dei rappresentanti delle Ninas Drag Queen, che hanno proprio una scuola di drag a Milano. Poi ci sta Sara Dinella e Ginevra Cassetta, che sono le curatrici del festival Bande Femme, Alessandra Ferraro, Porpora Marcasciano, che è la presidentessa del MIT, Claudio Mattella, poi sono tantissimi nomi, sì, Daphne Bohemien, Nicole De Leo, Julius Kaiser, Kiram, Avangar, sono anche dei personaggi che lavorano col drag, quindi in questo senso ci racconteranno la loro esperienza, quello che il drag gli ha permesso di fare, perché essendo una maschera, essendo un linguaggio, ti permette anche forse di arrivare ancora a più persone proprio con lo spettacolo. E ovviamente avremo anche Oli Dolores e Karma B, per un po' le fila di tutta la conferenza. Sì, fortunatamente abbiamo chiesto a Chiara Becchimanzi di moderare questo talk, proprio per essere una figura di intermediazione, ma anche perché le drag queen non sono moderate. Esatto. In chiusura ci date tutti i riferimenti web? www.dragmeup.it per trovare tutti gli spettacoli e tutte le cose che avvengono durante il festival per tutto il mese. Poi ci sono i nostri social, che sono Dragmeup Festival, sia su Facebook che su Instagram. Official Karma B e Karma B dappertutto, e Oli Dolores e Onda Tutto Teatro. Drag Me Up, Queer Art Festival, prima edizione. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Pasquali di Onda d'Urto Teatro e Carmelo di Karma B. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Grazie, ciao. Con Sara Alberani, curatrice del progetto Garbatella Images 2021. Dal 10 al 20 aprile in mostra le opere fotografiche inedite di 6 autrici ed autori. Sara, ben trovata. Grazie mille, ben trovate a voi e a tutti. Ci parli di questo progetto? Garbatella Images è la sua terza edizione, questa appunto che si sarebbe dovuta svolgere nel 2020, ma come sappiamo le attività culturali sono state fortemente colpite dalle restrizioni, devo dire anche in maniera impropria certe volte, quindi noi finalmente inauguriamo il 10 aprile ed è una mostra che, come nelle scorse edizioni, si svolge sia all'interno della Galleria 10B di Garbatella che nei cortili, quindi negli spazi pubblici dei lotti, in particolare di 4 lotti, il 24, il 29, il 30 e il 55, sono tutti limitrofi, per capirci, a Piazza di Santa Eurosia. E lì, anche appesi ai fili degli spenditoi, che è diventato un po' l'icona di Garbatella Images, ci saranno le fotografie. Quindi è una mostra sia pubblica che privata dentro la galleria. Quante sono le opere? Sono molte, perché le autrici e gli autori sono 6, e quindi sono una sessantina di foto in totale, forse anche qualcosa di più, distribuite sia dentro la galleria che nei lotti. Nei lotti ne troviamo una trentina, quindi è una mostra molto corposa e che fin da subito Garbatella Images ha continuato nel motivo per cui nasce, che è un rapporto con il territorio e con gli abitanti. Garbatella è, come tutti sappiamo, un quartiere che nasce sull'impronta di un'edilizia popolare, che ha mischiato moltissimo e dove è possibile fare un lavoro di ricerca della memoria intima, privata, ma anche storica e collettiva. Quindi che cosa succede? Che gli autrici, gli autori chiamati, sì, stanno facendo nuove produzioni, ma si confrontano in un rapporto relazionale con il territorio. Quindi è quello che possiamo definire un album di famiglia, collettivo di quartiere, che noi stiamo creando oggi per poi essere l'album del futuro, insomma, che raccoglie la memoria storica di che cosa è successo in questo 2020 e 21. Come era nato tutto? Perché Garbatella compieva 100 anni, li ha fatti nel 2020, e alcuni dei suoi abitanti storici, cioè i primissimi che hanno iniziato ad abitare il quartiere, stavano scomparendo. Cioè è proprio l'arco di una generazione intera che noi stavamo perdendo. Insieme a Francesco Zizzola, che è stato un po' insieme a me il coautore di questo progetto e che lui ha sede a Garbatella da anni insieme alla sua galleria, ci siamo chiesti come fare a raccogliere questa memoria che rischiava di scomparire. In particolare lui trovava fotografie, memorie non archiviate nella maniera giusta. I municipi non hanno degli archivi fotografici storici e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa. Abbiamo iniziato rintracciando le memorie degli abitanti, le foto sono state raccolte, digitalizzate, stampate ed esposte. Però non era abbastanza, cioè noi volevamo creare anche la memoria del futuro, come dicevo prima, e quindi chiamare anche fotografi contemporanei a produrre nuovo materiale. Potrei definirlo un festival perché ogni anno propone un tema, ogni anno propone una produzione abbastanza ampia, come dicevo. Quest'anno è curato insieme a me anche da Francesco Rombaldi di Yogurt Magazine, che è una realtà giovane nata negli ultimi anni sulla fotografia contemporanea. La scelta di questi nomi? Sono tutti italiani e ovviamente di prossimità. Questa è anche una cosa buona, devo dire, nella difficoltà della pandemia e di non chiamare autori internazionali. Ci siamo basati su fotografi e fotografi che erano di prossimità e potevano raggiungere Garbatella. Loro hanno lavorato sia a distanza e sia sul territorio. Quindi faccio una carrellata magari di quello che si vedrà. Durante la mostra Simone D'Angelo ha lavorato sull'licantropia, cioè la storia di questo licantropo davvero esistito a Garbatella che si aggirava nelle vie, è una messa in scena, è un racconto per immagini che lui ha costruito. Garbatella quasi è irriconoscibile nel suo bianco e nero, probabilmente non tutti gli abitanti sapranno di star guardando il loro quartiere, che è anche uno spostamento che noi cerchiamo sempre di fare, è proprio legato al tema visioni. Federica Leone ha lavorato e si è chiusa nell'821, cioè ha deciso di lavorare su uno spazio concluso, riprendendo proprio i sentimenti e le emozioni durante la pandemia col fatto di non poter uscire, cioè è stata ossessionata da tutti gli oggetti e dettagli che incontrava in quell'otto. Luigi Cecconi ha lavorato su Concordia, cioè sulla parte marittima, sugli aspetti marittimi di Garbatella, che doveva essere uno snodo portuale con il porto fluviale. Quindi è un progetto irrealizzato, il suo lavoro è surreale, sono collage che si mescolano con le architetture di Garbatella e la trasformano in un borgo marinaro. Marie Baldò ha lavorato su Boom, cioè il boom economico degli anni 50 e 60, grazie ad un abitante di Garbatella e al suo archivio fotografico, grazie a Giulia D'Angelo, vedremo un lavoro di riappropriazione. Linda Pezzano ha lavorato sull'universo femminile di Garbatella. Sappiamo che Garbatella è da sempre stato un quartiere attivo, di resistenza, di grande mutuo soccorso femminile, ad esempio le Sgarbatelle, un'associazione informale che si prendeva cura delle proletarie, operaie, rimaste vedove, orfane. Quindi lei ha intervistato una decina di donne, poi facendo i loro ritratti legati molto al territorio e alla natura di Garbatella. E poi per finire Luca Brunetti ha lavorato sul suo paesaggio interiore, mettendolo a confronto col paesaggio reale, quindi è un notturno distopico, molto perturbante, a tratti angosciante, e la fotografia viene fuori grazie all'uso della luce, ad esempio. Quindi sono tutti lavori molto diversi fra di loro. Ci lasci tutti i riferimenti? Dal 10 al 20 aprile. Inauguriamo il 10, che è sabato, con un orario più esteso, quindi dalle 12 alle 20, e se sarà possibile ci saranno anche delle visite guidate nell'arco della giornata. La galleria per il resto è aperta tutti i giorni dalle 16 fino alle 20, e ovviamente nei lotti si può andare a vedere la mostra quando si vuole. È ancora spazio pubblico nonostante tutto. Garbatella Images 2021, un saluto e un ringraziamento alla curatrice del progetto, Sara Alberani. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Evviva il lupo, grazie a tutti e a tutti, a presto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.